Si salva! Sull'onde sonore col solo se piove ma senza timore né destinazione. Io tengo il timone, vi porto laddove il coraggio ci guida. Traghettatore, signore e signore, non è una crociera. Oltre la frontiera del muro del suono, bandiera nera che sventola fiera in alto quanto l'ozono. Burrasca o tempesta, scenario epico con lo scirocco, il maestrale e lo zefiro. Io e i miei compari, terrori dei mari, sanguinari come corsari. Cazza la randa, barra a bordo, scorgo un vascello che ci viene contro. La strategia non è un gioco, prepara i cannoni pronti a fare fuoco. Lo scopo è cercare un profitto da prendere a ricco. Esce sconfitto, piccola picco, in faccia gli squaglio giù fino ai fondali. 15 uomini, cassa del morto, 10 bottiglie di rum, gran riserva. Anche stanotte lontani dal porto, un mare di stelle ci fa da coperta. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Tiriamo sulle mani, facciamo casino ogni volta che c'è una jam. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Yo brother peace, brindiamo sopra un beat. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Tiriamo sulle mani, facciamo casino ogni volta che c'è una jam. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Yo brother peace, brindiamo sopra un beat. Noi siamo quelli che sbagliano e imparano. Il solo maestro è l'albero. I didi è meglio se scappano a terra ferma e non salpano. In alto mare ti può capitare di andare a incontrare tsunami e tempeste. Ciurma setate di sangue, sirene, baldracche e anche spiagge deserte. Scoperte, tesori, tramonti dai mille colori. Dama in cintura di castità, se sei senza chiave non si chiaverà. Ma raffa da sottofondo, giriamo il mondo e se tu sei pronto, sali su a bordo, abbandona il tuo porto. Vedrai che la terra che è intorno ha tutt'altro volto. Siamo pirati del re, amiamo sta musica e se poi ci riuniamo nel covo, sentirai il frastuono del suono fino alle Seychelles. Rotta su Cuba, attento alle Bermuda, se infami ti diamo in pasto ai barracuda. Se un duca, un conte, c'è la passerella, non resti sul ponte. Contiamo i dobloni sottratti dai galeoni, ma invece di fare i soldi pensiamo a fare canzoni. Lo so può essere strano, ma questo è come viviamo. Brindiamo e siamo presi bene, insieme tutti cantiamo. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Tiriamo sulle mani, facciamo casino ogni volta che c'è una jam. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Yo brother peace, brindiamo sopra un beat. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Tiriamo sulle mani, facciamo casino ogni volta che c'è una jam. Pirati del rap, son certo di meglio non c'è. Yo brother peace, brindiamo sopra un beat. Mad Sonia! Mad Boys!